Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È lunedì, quindi l'appuntamento si rinnova con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Caro Gianluca, allora parliamo, ne abbiamo già parlato altre volte, ma ci sono delle novità interessanti per quanto riguarda la situazione dei call center che tanto odiamo in certi casi. Sì Francesco, noi siamo arrivati addirittura a definirlo stalking commerciale, quell'atteggiamento, quel comportamento utilizzato dai call center che chiaramente lavorano per varie aziende e che chiamano praticamente a qualsiasi ora del giorno e anche fino alla sera, per chiamano appunto solitamente il telefono di casa, ma ormai siamo abituati anche a ricevere telefonate sul cellulare e appunto le telefonate appunto di questi call center che ormai stanno creando dei grandissimi disagi soprattutto alle persone più anziane che molte volte anche si trovano a rispondere e anche a stipulare dei contratti senza rendersene conto. Ecco, noi da tempo, ne abbiamo parlato anche durante la tua trasmissione, abbiamo segnalato questo problema perché comunque tante persone vengono da noi e ci chiedono cosa possiamo fare per difenderci dalle chiamate selvagge, dallo stalking commerciale. Ecco, fino ad ora è l'unico suggerimento che abbiamo potuto dare, perché è l'unico veramente che può dare una piccola mano, è quello di iscriversi al registro delle opposizioni, che è appunto uno strumento tramite il quale in teoria dovrebbero diminuire radicalmente il numero di chiamate, però abbiamo visto che molto spesso non funziona. Ora chiaramente e fortunatamente il governo interviene nel suo DDL sulla concorrenza e proprio per affrontare questo problema, perché è veramente un problema che noi tutti penso conosciamo. E allora il DDL concorrenza introduce alcune pratiche che insomma all'apparenza potrebbero risultare molto utili. Sono soprattutto due le cose importanti che dovrebbero essere introdotte da questo disegno di legge. In primo luogo l'operatore che chiama appunto il possibile cliente deve subito identificarsi, cioè deve subito spiegare per quale azienda chiama. Sì. E dopo deve spiegare anche il perché, cioè cosa vuole pubblicizzare, qual è il suo scopo commerciale o promozionale. Queste cose non sono cose di poco conto, perché molto spesso sappiamo benissimo la telefonata da parte del call center è una telefonata poco trasparente, molto spesso le persone non sanno con chi si stanno confrontando, col call center di quale azienda, non sanno quale sia la proposta commerciale, cosa ci voglia propinare, diciamo, chi ci sta chiamando. Quindi queste due informazioni sono molto importanti, anche perché alla seconda informazione il cliente chiaramente ha tutto, il possibile cliente, chi ha risposto al telefono, ha tutto il diritto di dire non sono interessato e di mettere giù il telefono. Certo. In questo modo evitando anche Francesco tutte quelle situazioni anche non molto simpatiche in cui a un certo punto chi riceve continuamente telefonate è talmente arrabbiato che può cominciare anche a insultare l'operatore del call center, non sarebbe la prima volta. In questo caso con questi tre passaggi teoricamente una persona può evitare appunto di dover stare al telefono a lungo o di essere tra virgolette raggirata, di stipulare dei contratti che non gli interessano. Cosa succede però? Il garante della privacy ha criticato questo disegno di legge perché per un motivo semplice, perché in questo modo comunque di fatto si liberalizza la possibilità di chiamare le persone, mentre appunto come ho detto all'inizio del programma, mentre adesso c'è questa possibilità di ridurre il numero di chiamate iscrivendosi al registro delle opposizioni. Se passa il disegno di legge, in buona sostanza salta anche il registro, per cui sostanzialmente il garante della privacy teme che ci sia addirittura un aumento del telemarketing selvaggio. Noi cosa contestiamo al garante della privacy? Il fatto che tanto il registro delle opposizioni sta dimostrando una scarsa utilità, perché comunque vale solo per le persone che sono nell'elenco telefonico e vale solo per i telefoni fissi. Certo. Mentre sappiamo benissimo che ormai i call center ci chiamano anche sui cellulari. In ogni caso devo dire che molte persone che si sono iscritte al registro delle opposizioni che sono sull'elenco telefonico e che appunto sono iscritte per evitare le telefonate al fisso, in realtà anche con l'iscrizione non sono riusciti a risolvere molto, hanno magari visto ridurre il numero di chiamate, però i call center riescono ad aggirare anche il registro, per esempio quelli che chiamano dall'estero possono aggirarlo tranquillamente. Quindi noi riteniamo intanto che molto positivo che comunque si senta questa necessità da parte del governo di intervenire in questa materia molto delicata, e poi riteniamo anche che il disegno di legge possa andare anche nella giusta direzione, magari con qualche aggiustamento, però lo riteniamo un disegno di legge positivo. Certo, vabbè, staremo a vedere come evolverà la situazione, e grazie anche all'attenta e acuta osservazione dell'Adico terremo informati gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Io ti ringrazio Gianluca e ci diamo appuntamento a tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.